Una su mille ce la fa. E con questa track l'abbiamo messa a posto. L'abbiamo messa a posto. Zemia. O Giovenca. No, mi devo fare. E allora se chi devo... vuoi? Chi vuoi? Faremo Giovenca. Possiamo andare a salutare. Allora, certo, mia bella Giovenca. Questa sarà la tragedia della settimana, perché gli ascoltatori non sanno che ne abbiamo una settimana e qua abbiamo inaugurato, vabbè, quella di questa settimana. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio, per tu non ci sarai. Se in questi giorni c'è qualcuno che ha un sorriso a 32 denti, è sicuramente il neo ministro dell'economia Padoan. Le prime aste di titoli di Stato con la sua guida hanno registrato un ottimo piazzamento fra gli investitori internazionali che a quanto pare stanno facendo a gara per avere in portafogli i nostri BOT, i nostri BTP. Insomma, Deborah, andiamo a ruba, ma lo spread che fine ha fatto? Rosica rosica, piano piano, zitto zitto scende. In questi giorni naviga intorno ai 190 punti e a rosicare ora forse sarà la Germania, che questa settimana invece non sorride tanto, perché i suoi titoli di Stato, che si chiamano Bund, non riscuotono più un grande richiamo fra gli investitori. Quindi buone notizie per i piccoli risparmiatori italiani, possono sorridere finalmente anche loro. Mettiamola così, dai. Possiamo guardarla da un duplice punto di vista. Un po' è giusto che sorridano, perché il paese da qualche tempo è considerato più affidabile, quindi ci guadagniamo tutti. Dall'altra parte però è anche vero che questo eccesso di fiducia costa, perché il titolo di Stato rende un po' meno nelle tasche di chi l'ha sottoscritto, o almeno così è stato negli appuntamenti di questa settimana. Tutte le aste hanno spuntato sui titoli appunto piazzati rendimenti ai minimi storici. Buongiorno a Claudio Vacanti, direttore investimenti di Banca Generali. Buongiorno. Buongiorno. E allora è andata così, no? Minimi storici, buone notizie? Sì, in questi ultimi giorni il Tesoro ha offerto non solo botta a 6 mesi, ma un po' tutto il menù. Diciamo titoli a 10 anni, a 5 anni, titoli a 2 anni, titoli a tasso variabile. Su tutto il fronte, su tutte le offerte, i titoli sono risultati ai minimi storici, quindi con i bot a 6 mesi aggiudicati allo 0,45 e BTP a 10 anni, per prendere i due estremi, aggiudicati a tassi del 3,40, con un grande interesse da parte anche degli investitori istituzionali. Questi tassi bassi comunque ricordiamo che sono in parte il risultato appunto della maggiore affidabilità del nostro paese in questa fase, ma anche sono il riflesso del fatto che la struttura dei tassi di interesse in Europa in questo momento è molto bassa. Mm-hmm. Ricordiamo che il tasso di riferimento della banca centrale è allo 0,25%. Potrebbe anche scendere, tra l'altro, perché non è detto che Mario Draghi non ne compia anche questa operazione. Sì, questo diciamo è quello che il mercato sussurra. Personalmente penso che è più una cosa di cui si parla che non magari materialmente venga fatta, perché insomma Mario Draghi è molto prudente e diciamo così che la Banca Centrale Europea viene condotta con una grande disinvoltura, mediando anche le posizioni dei tedeschi, che sono sempre un po' più rigide. Certo. Da questo punto di vista. Tornando comunque insomma al titolo di Stato, forse questa settimana chi ci ha investito non ha fatto un grandissimo affare, forse ci sta guadagnando in questo periodo di più mio nipote, che perdendo i dentini da latte riceve la visita del topolino. Nicoletta, vale 5 euro a dente, pensa qua quanto è generoso, no? Quasi quasi me ne faccio estrarre uno pure io. Direi che non ti conviene, no? Perché l'estrazione costa. Ah. E una volta che l'hai tolto, il dente deve devi rimetterlo, perché quelli che abbiamo ci servono tutti. Gli unici che possono davvero festeggiare, come dicevi tu, la caduta di un dentino sono i bambini, se parliamo dei denti da latte, sui quali forse proprio perché cadono risparmiamo un po' di cure e attenzione, insomma li trascuriamo senza pensare che proprio dai denti da latte dipende la salute dei denti perenni, che devono rimanere nella nostra bocca, ci auguriamo, il più a lungo possibile, sani e forti. Quindi 800 24 00 24, non investite solo in botte BTP, ma anche nella salute della bocca dei vostri bambini e, perché no, anche nella vostra. E di questo investimento, che costa poco e rende molto, ma soprattutto, e questo mi preme sottolineare, costa parecchio a chi non lo fa, ne parleremo nel corso della trasmissione, quindi iniziate a chiamarci al nostro numero verde, a prenotare il vostro intervento se volete parlare del vostro sorriso o in modo particolare del sorriso magari un po' sdentato del vostro bambino. Invece in questa prima parte di Cuore e Denari ci concentreremo sui fatti finanziari della settimana, perché anche questi sono molto importanti per la nostra vita quotidiana, e potremo fare, se lo vorrete, con voi un punto della situazione per capire se avete un portafoglio sufficientemente diversificato che compensa la discesa dei tassi di interesse dei titoli di Stato. Per cui 800 24 00 24, se vi reputate dei risparmiatori sorridenti, raccontatecelo quanto è grande il vostro sorriso su questo tema. È un sorrisino, un sorrisone. Claudio Vacanti sarà qui a rispondere alle vostre curiosità sugli scenari di mercato, per capire anche se ci sono delle opportunità di investimento in giro per il mondo un po' più redditizie dei titoli di Stato italiani, ma sempre naturalmente non dimenticando che i nostri ascoltatori hanno un atteggiamento nei confronti dell'investimento molto prudente e molto cauto. Deborah, questa settimana abbiamo iniziato con un sorriso amaro. Sì. Parlando del possibile aumento della tassazione sulle rendite con la famosa vecchietta di Del Rio. Esatto. Che si vedeva tassato il rendimento dei suoi bot. A quanto ci stai raccontando però, Deborah, le vecchiette italiane poi chissà a partire da che età possono essere considerate vecchiette, non sembra si siano lasciate molto intimorire, insomma sono vecchiette forti, toste. Perché mi sembra, no? Vorrei sì. chiedere anche alla dottoressa Vacanti, insomma le vecchiette non si sono lasciate intimorire dalle polemiche le politiche. Aste le hanno affollate anche loro, presumibilmente, dottoressa Vacanti. Beh, decisamente, direi che comunque il successo delle aste e in generale dei nostri titoli di Stato in quest'ultimo periodo vanno un po' inquadrate in un quadro un po' più ampio di miglioramento dello scenario europeo e di stabilizzazione della, in particolare della finanza, delle finanze pubbliche italiane. Diciamo, purtroppo grazie a tutte le manovre finanziarie che sono state implementate negli ultimi anni, le finanze italiane sono diventate più stabili e in generale l'Europa, dopo alcuni anni di difficoltà, sembra, diciamo, mostrare dei segnali di stabilizzazione e di accenno di ripresa di crescita economica. Quindi i rischi di implosione dell'area euro, no? Di rottura della moneta unica stanno scendendo e in questo senso i titoli di Stato italiani vengono percepiti come meno rischiosi e quindi sono una buona opportunità di rendimento. Tornando però per un attimo a questa eventualità di una nuova tassazione sulle rendite finanziarie, una patrimoniale, una riorganizzazione della tassazione, dottoressa Vacanti, come investitori professionali qual è il vostro pensiero su questo? Perché sì, l'eventualità è stata prontamente smentita, però non si sa mai, no, Nicoletta? Mi viene in mente Andrea Vitali, non so se la dottoressa Vacanti ci stava sentendo, magari sì. Comunque ci ha detto che il neo premier Matteo Renzi a lui consiglierebbe di rileggersi Pinocchio. Sì, beh, questa è una fase in cui quando c'è un nuovo governo, diciamo così, la comunità internazionale tende comunque a guardare con attenzione i messaggi che vengono dati e quindi, diciamo, nel momento in cui si guarda l'Italia un po' con un occhio distaccato internazionale, si vede che fare la diagnosi di quali sono i problemi che impediscono al nostro paese di crescere, no? E quindi quali sono gli elementi da aggredire è abbastanza semplice, quindi è molto semplice dire le tassazioni sulle rendite finanziarie è troppo bassa perché la media europea è più alta. Sì. è facile dire che diciamo la pressione fiscale è più alta della media europea, quindi dovrebbe scendere. Quindi si fanno degli enunciati, poi bisogna vedere un po' alla prova dei fatti se si riescono effettivamente a implementare quei cambiamenti, quelle riforme che possono consentire al nostro paese, certo, di ritornare alla crescita economica. Se mi posso permettere, direi che il primo problema di cui questo nuovo governo deve prendersi carico è quello del lavoro. Abbiamo avuto stamattina dati nuovamente drammatici sulla disoccupazione italiana, al top dal 97 al gennaio di quest'anno. Comunque, prima di fare una fotografia, anche se parzialmente lei l'ha richiamata, dottoressa Vacanti, poco fa, alle aste della settimana e a quello che è successo questa settimana, le operazioni condotte dal Tesoro italiano, le preannuncio questa domanda di un ascoltatore, così ci riflettiamo e magari gli rispondiamo dopo. Enzo, che chiede, ed è una domanda assolutamente pertinente che in qualche modo poi avrei voluto affrontare con lei anche io, chiede dove possiamo investire in questo periodo, considerando che tre fattori: i mercati sono estremamente drogati da iniezioni di liquidità enormi, le borse sono ai massimi, i titoli di Stato sono ai minimi. Dateci qualche buon consiglio, poi ci torneremo. Ritorniamo appunto alle aste di questa settimana. BTP a 5 anni, il rendimento è sceso al minimo storico dall'introduzione dell'euro, al 2,14%. Il BTP a 10 anni è quello che osserviamo di più perché è quello che utilizziamo per fare il calcolo dello spread. Il rendimento è al 3,42%, il minimo da luglio 2005 in questo caso. Due anni fa, tanto per dare un po' le dimensioni della situazione, certo, questo titolo, Nicoletta, rendeva il 7% nel momento drammatico della crisi con uno spread a 575. Questo per arrivare, dottoressa Vacanti, al grande tema di questi ultimi anni, lo spread. Quanto conta, a suo giudizio, oggi nelle scelte di investimento? Ci deve spaventare? Lo dobbiamo comunque guardare? Ce lo siamo dimenticato adesso che è scivolato sotto i 200 punti? Qual è la situazione a suo avviso? Ma allora, effettivamente, come lei ha ricordato, lo spread è una misura dell'affidabilità del paese, è una misura del rischio paese Italia. E in questo ultimo periodo, appunto, grazie, come dicevo, alle strette fiscali che sono state implementate in Italia, la situazione della finanza pubblica si è stabilizzata e l'area europea in generale si appresta a fare una base per riparlare di crescita, e quindi in questo contesto i rischi diminuiscono e lo spread tende a diminuire. Allora effettivamente è vero che diminuendo i rischi questo fattore diventa in questa fase un po' meno importante, quindi questo tormentone che ci ha un po' perseguitato in tutti negli ultimi 2 o 3 anni effettivamente in questo momento lo possiamo accantonare. Lo lasciamo a voi investitori professionali, sì, diciamo, no? Solamente che ricordiamoci di tenerlo lì in un angolo, perché se l'Italia comunque non riuscirà a ritornare alla crescita economica, tra 2 anni lo spread sarà ancora qui a tormentarci. E tra l'altro, a proposito di questo, diciamo che anche le ultime stime della Commissione europea non sono particolarmente incoraggianti per l'Italia quest'anno, perché mi pare che da Bruxelles si preveda una crescita dello 0,6% per l'Italia nel 2014, per cui non è che possiamo proprio ancora cantare vittoria, e speriamo allora che questo governo non si dimentichi anche di questo tema molto importante. Lo spread è sceso, cara Nicoletta, anzi, sì, proprio caduto, direi. È caduto proprio come i dentini da latte, i denti di Michele, tuo nipote. Noi raccontiamo ai bambini che il topolino a portare via il dentino nascosto magari sotto il cuscino, sotto un bicchiere, lasciando al suo posto qualche monetina. Invece lo spread, chi se l'è portato via secondo voi? Qual è il topolino dello spread? Ha un nome, un cognome, una nazionalità? Passava lì fischiettando per caso, invece era tutto preparato? Qual è la vostra sensazione? 800 24 0024. Dottoressa Vacanti, cominciamo a rispondere ad Enzo, che si chiedeva quanto è sostenibile la situazione attuale anche in un'ottica di scelta di investimenti da fare. Allora, primo punto, i mercati sono drogati da iniezioni di liquidità, e questo lo sappiamo perché le banche centrali, per gestire la crisi degli ultimi 2 anni, sono state estremamente generose, però la Federal Reserve, la banca centrale americana, sta tirando i remi in barca. Questo primo punto lei come ce lo vuole analizzare? Allora, L'abbondanza di liquidità che i mercati e le economie hanno ricevuto andava in questi ultimi anni a controbilanciare le politiche restrittive che invece sono state implementate per riportare i debiti sotto controllo. Quindi in termini di politica economica andavano un po' a controbilanciare questo aspetto. Ed è normale aspettarsi che, certo, migliorando la situazione, e quindi gli Stati Uniti sono un po' più avanti dell'Europa da questo punto di vista, lo stimolo monetario venga lentamente ritirato. L'anno scorso, quando è stata un po' annunciata questa manovra, i mercati hanno vissuto nel mese di giugno una fase di grande turbulenza, perché quando c'è un cambiamento il mercato deve riaggiustare tutte le aspettative. Erano molto bene abituati in quella fase là. Esatto, e quindi c'è stata un po' di paura. Direi che adesso, a distanza di alcuni mesi, il mercato ha preso coscienza che in particolare l'economia americana sta crescendo non a tassi eccessivamente accelerati, però su delle basi solide, quindi con un mercato del lavoro che in America lentamente sta vedendo rientrare il tasso di disoccupazione, il mercato immobiliare che ha ricominciato dopo il grande aggiustamento della crisi dei subprime, comunque a marciare, con un'economia che è estremamente competitiva e riattira investimenti esteri. Quindi il mercato, avendo visto con mano che la crescita economica è più solida, può ha riaggiustato le aspettative e non credo che si spaventi per questa manovra, certo, restrittiva della Banca Centrale Americana, che poi restrittiva non è una diminuzione dello stimolo, infatti, perché i tassi sono sempre a zero. 800 24 0024, se volete intervenire con le vostre domande sui temi del giorno. Abbiamo in linea con noi non la vecchietta di Del Rio ma Giuseppe da Como, che magari è il figlio della vecchietta di Del Rio. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, non sono la vecchietta di Del Rio. No, infatti, ci dica. No, volevo fare una domanda che può essere anche semplice e banale. Può essere un'alternativa ai titoli di Stato e quindi anche obbligazioni societarie l'investimento in azioni di multinazionali europee, diversificando il mio portafoglio in un terzo in questo investimento, che mi danno dei buonissimi dividendi? Beh, allora diciamo che i due mondi sono molto distanti, dottoressa Vacanti, tra il bot e l'azione della multinazionale, la Nestlé della situazione, che sicuramente punta sui mercati internazionali, ma proprio per questo è oggetto alle oscillazioni anche valutarie, no, di questi. Decisamente parliamo di due categorie di rischio e di volatilità agli estremi completamente diversi, però l'ascoltatore ha colto un punto. Cioè, in questo momento in cui stiamo parlando di un'economia del mondo sviluppato, quindi di Europa e Stati Uniti, che a distanza di 6 anni dall'inizio della crisi finanziaria stanno ricominciando a crescere, e quindi ci troviamo con i tassi di interesse che sono ai minimi del periodo, è corretto per un risparmiatore pensare a ritornare con una parte dei propri investimenti sul mercato azionario. Ad assumersi un po' più di rischio, mettiamola così. Esatto, ed è corretta anche l'idea di investimento di prediligere stili di investimento focalizzano la propria attenzione sulle società che pagano dividendi, perché questo è uno dei modi più difensivi per entrare nel mercato azionario, ed è corretta secondo me anche in questa fase l'idea di investire su un portafoglio molto diversificato a livello internazionale. Infatti, la parola d'ordine degli esperti qui di denari e anche quindi la sua, dottoressa Vacanti, è sempre diversificare. Infatti possiamo dare magari un ultimo suggerimento a Giuseppe, però non è che se prima aveva 10.000 euro tutti sui bot adesso diventano automaticamente 10.000 no. nell'azione della multinazionale. Ecco, esatto. Facciamo anche un percorso graduale, immagino. Ma Giuseppe ha parlato di un terzo. Ah, bene. Ok, mi questo sembra sì. nella sua descrizione sì. e secondo me per un investitore prudente pensare a percentuali intorno al tra il 20 e il 30% in strumenti azionari, secondo me è una scelta corretta. Benissimo. Voglio sottolineare il discorso della diversificazione. Suggerisco di rivolgersi sempre a fondi comuni di investimento, quindi non selezionare singole azioni con il fai da te, ma scegliere uno strumento come il fondo che per sua natura è molto diversificato. Bene, ricordo tra l'altro che noi saremo al Salone del Risparmio tutte e sì. due, per tutte e tre le giornate a fine marzo, per cui per chi vuol venire a vedere un Salone del Risparmio che devo dire ci copia un po'. Ci copia un po', l'abbiamo già contestato. Ma noi siamo molto contenti. Allora, posso, dottoressa Vacanti, prima di dare la linea a Deborah per i mercati, leggere la domanda di Marco che ce la manda al 349-238-6666. Perché se calano i rendimenti e i tassi di riferimento, il mio mutuo variabile a 20 anni, e ci scrive me ne rimangono 15, mannaggia che fatica, non cala? Dottoressa Vacanti. Il mutuo a tasso variabile dovrebbe essere indicizzato al tasso Euribor a breve. Esatto. Che come abbiamo detto prima è già ai livelli minimi, quindi non corretto è che può, pensare non può, che come si dice mi viene questa parola raschiare ancora il ulteriormente fondo al barile. Esattamente no, mi faceva dei gesti strani dottoressa Vacanti, assomigliava un po' al mio cane quando scava le buche in giardino. Esatto, allora ho capito così. Che era il barile, quindi più giù di così non si può andare. Sì, esatto. Cuore e denari. Ma non ci sono i soldini e neanche il dente. Chi ha portato via lo spread? È stata la fatina dei denti, il topolino? Ma a proposito, se un topolino è passato da casa vostra a portare soldi ai vostri bambini, chiamateci subito, restate con noi, iniziate a prenotarvi perché tra poco, dopo il traffico, ci occuperemo proprio dei sorrisi dei nostri bambini e perché no, anche dei nostri. Se avete in casa qualche sdentatello, chiamateci 800 24 0024. Salva Danaio. Eh sì, c'è un'aria senera, stamattina mi strozzo, Nicoletta sappi che dovrei intervenire fra un po' con un intervento d'emergenza. C'è un'aria serena sui mercati obbligazionari, specie merito delle aste che si sono chiuse questa settimana, le abbiamo ricordate tutte all'inizio del programma. Secondo molti però il merito di questa ritrovata serenità è tutto riconducibile alla protezione invisibile di qualcun altro. Ci sono le garanzie della Banca Centrale Europea. Tu pensa, Nicoletta, pensa a un uomo che viene davanti a te e ti dice io farò tutto quello che è necessario fare per proteggere questo nostro rapporto. Magnifica. Lo ha fatto Mario Draghi un anno e mezzo fa a Londra. Beh, e da quel momento in avanti lo spread si è proprio tranquillizzato. Tu vedi, pensa, con questo atteggiamento già è affascinante di suo, no? Con un modo così carismatico ti viene a dire questo e come fa lo spread a non scendere? Per forza cala. Certo, dottoressa Vacanti, naturalmente non le chiedo commenti sul fascino o meno di Mario Draghi, ma ritornerei... Magari vorrebbe dire anche qualcosa su Mario no? Draghi, adesso, perché se vuole anche la dottoressa Vacanti, insomma... Donna. Se vuole sbilanciarsi, noi glielo permetteremo, tornerei alle diversificazioni dei nostri ascoltatori, ricordando che il mutuo a tasso variabile non scende perché più di così non può andare. Quindi, ecco, purtroppo le notizie sono cattive perché d'ora in avanti non si potrà far altro che salire. E questo è il tema. Franco da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, siete molto brave e molto simpatiche. Grazie Franco, grazie. Anche lei. Allora, grazie. Io ho chiamato perché ho degli investimenti da circa 8-10 anni presso l'Unicredit e ho degli investimenti diversificati, nel senso, oltre al conto corrente, anche il borsino titoli, faccio varie cose in gruppi di diverse decine di migliaia di euro, perché mi è sempre stato detto che era meglio appunto differenziare, come dicevate voi oggi. Avevo una domanda a questo riguardo. Io ultimamente ho ricevuto delle proposte da altre banche, proposte molto interessanti per spostare chiaramente chiaramente il mio patrimonio in questi concorrenti della banca presso cui sono. Devo dire che ci sono dalla Deutsche Bank soprattutto delle cose molto molto interessanti, però noi chiaramente non possiamo dare suggerimenti su dove andare. No, per l'amor di Dio, la mia domanda era solo perché io infatti non volevo fare pubblicità, però ho citato la Deutsche Bank perché danno delle particolari condizioni a chi passa da loro. Non dirò infatti con che tipo. Quali sono i dubbi che l'attanaglia, Franco? Perché esattamente, non fa io per ora ho sempre differenziato e in questo caso mi sembrerebbe molto molto interessante, diciamo economicamente parlando, mettere tutti i soldi in una medesima operazione, diciamo così, non a rischio che da un minimo garantito. Quindi concentrare tutto, Franco, lei passa proprio da una... è un po' come l'ascoltatore di prima, dottoressa Vacanti, che dal bot vuole passare all'azione multinazionale, no? E Franco lo stesso, dopo una grande diversificazione, adesso vuole tornare ad una concentrazione. Ci sarà una via di mezzo? Un cambiamento come radicale, può, come insomma. Può fare Franco un'analisi per capire qual è la strada migliore per lui? Perché giustamente molti che diversificano tanto dicono: ma effettivamente io ho tante cose, pago tante commissioni, quindi è corretto, no? Unificare un po'. Ma allora, diciamo, sono due argomenti diversi. Un conto è affidarsi a più gestori, che forse è diciamo il dubbio dell'ascoltatore, quindi se seguire i consigli solamente di un unico intermediario finanziario, affidarsi solo a un intermediario finanziario o diversificare. Però diciamo che lì si può avere anche una banca e avere più gestori, perché certamente si possono sottoscrivere più fondi di investimento gestiti da aziende diverse. Esattamente, quindi questo era quello che volevo dire, avere un solo rapporto con un intermediario finanziario, ma ormai le architetture sono aperte, come si dice, no? Quindi si può comunque dalla una medesima banca avere un'offerta comunque diversificata per gestori. Questo può essere una buona idea. Secondo me, diciamo, la cosa più importante però è capire esattamente che cosa si compra, quindi la cosa più importante è non concentrare tutto sul medesimo tipologia di investimento, quindi non tutto su un solo titolo, non tutto su una singola asset class, come diciamo noi, quindi non tutto sulle azioni, ricordando che quando i tassi di interesse diventano molto bassi e si è alla ricerca di qualcosa che renda, bisogna stare attenti a non dimenticarsi dei rischi che sono associati a quello che si va a comprare. Quindi, diciamo così, come si diceva prima, in un portafoglio prudente, in questa fase congiunturale, a me sembra corretto inserire una parte di portafoglio azionario, come abbiamo detto, con quelle percentuali, puntando su una scelta di un prodotto globale, perché il prodotto globale, per come diciamo viene strutturato, ha circa in genere un 60% di mercato americano e un 30% di mercato europeo e il rimanente un po' sparso magari sui mercati asiatici, ed è un buon modo con cui il risparmiatore può andare a cogliere le opportunità di investimento in questo momento. Anche se, dottoressa Vacanti, i mercati azionari in alcune piazze sono ai loro record storici, Wall Street ieri sera ne ha toccato un altro di massimo storico sullo Standard & Poor's, non è che invece abbiamo qualche correzione dietro l'angolo e dobbiamo stare in guardia? Ma allora, io penso che il mercato americano, è vero, ha fatto molto negli ultimi due anni, ha recuperato diciamo tutto quello che aveva perso, del resto è il sistema economico più efficiente, è il sistema economico con la banca centrale più pronta a reagire. È vero che le valutazioni cosiddette nel mercato azionario non sono così più a sconto negli Stati Uniti, però ricordiamo che la valuta americana è molto competitiva, perché sicuramente non possiamo dire che sia una valuta forte. Il costo del lavoro in America è molto competitivo. I dati macroeconomici sono estremamente solidi, la disoccupazione sta scendendo e in più il sistema America è molto competitivo e sta ricominciando ad attrarre investimenti dall'estero, si parla di reindustrializzazione dell'America, per cui, come dire, il mercato azionario riflette degli elementi di forza oggettivi e le aziende fanno soldi, quindi come dire... Questo sostiene gli indici appunto azionari di conseguenza, certo che magari non potranno di nuovo raddoppiare le loro prestazioni, ma potranno avere una costanza, appunto una crescita costante magari nel tempo. Nicoletta, abbiamo anche qualche altro ascoltatore? Certamente, sì. Con noi Fabrizio che ci chiama da Roma, sta aspettando da un po' di parlare con la dottoressa Vacanti. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Tra l'altro, da quello che vedo, la sua domanda richiederebbe una puntata interamente dedicata. Ma... Sì, è vero. La mia domanda è basica, ma nello stesso tempo è anche molto complessa, perché io sono un prossimo investitore novello, diciamo, e quindi sto adesso tentando di informarmi un po' su tutto. Dovrei fare un investimento intorno ai 70-80 mila euro. Quello che volevo chiedere è proprio un minimo di base per poter capire su che cosa orientarsi nel momento in cui mi troverò a che fare con magari un intermediatore. Mamma mia, che domanda difficile. Allora, intanto possiamo dire a Fabrizio che noi faremo, in vista del Salone del Risparmio, delle trasmissioni sul tema del buon consulente, qual è la figura più idonea alle nostre necessità. Io dico, dottoressa Vacanti, che la prima domanda che possiamo fare a Fabrizio e che può diventare una risposta è: intanto cosa devo fare di questo denaro, no? Questo già può dare a lui un suggerimento poi su come investirlo, se collocarlo in un prodotto che ha bisogno di un determinato periodo di tempo o in un altro che invece ha una logica più di breve termine. Che ne dice? Ma allora, effettivamente quando si vuole valutare un investimento, la prima cosa da definire è l'orizzonte temporale, cioè quindi se di questi soldi li sto mettendo via per la mia vecchiaia, quindi se sono giovane e sto accumulando un patrimonio per quando sarò più anziano, oppure se devo fare degli investimenti limitati nel tempo perché progetto magari, non so, certo, fra 3 anni di comprar casa, non posso mettere questo denaro, direi, in un fondo di investimento dei paesi emergenti che ha bisogno, come dire, di maturare, no? Di tempo, ecco. Esatto, quindi già questo, l'orizzonte temporale, più è lungo l'orizzonte temporale, più mi posso permettere, okay, di assumere rischi nel portafoglio. Più è corto l'orizzonte temporale, più invece i devo rischi essere tendono prudente ad annullarsi. Okay, quindi ecco, questo è un po' un orientamento di carattere generale. Allora, immaginando che comunque una parte di questi soldi debbano andare sul mercato obbligazionario, visti i rendimenti diciamo così bassi che ci sono e la prospettiva di miglioramento dell'economia di cui abbiamo più volte accennato, in questo momento il suggerimento sulle obbligazioni è di evitare investimenti con durate troppo lunghe, perché quando poi i tassi, ci auguriamo, col miglioramento dell'economia, magari l'anno prossimo o tra 18 mesi inizieranno a salire, se abbiamo comprato dei titoli con scadenze troppo lunghe, all'aumento del tasso i prezzi scendono. Benissimo, dottoressa Vacanti, noi dobbiamo salutarla, la ringrazio, però due indicazioni concrete al nostro ascoltatore le abbiamo date, speriamo che... E noi torneremo a dare anche delle linee guida, certo, per così dire, anche nei nostri appuntamenti dedicati al risparmio. A proposito di linee guida, ne parleremo anche noi tra poco, linee guida che ci aiutano a investire nella salute della bocca dei nostri bambini per evitare che si ritrovino sdentati da adulti. L'obiettivo quindi è far crescere bene i 32 denti, mantenerli a lungo sani e forti per poter svolgere fino in fondo il loro lavoro e soprattutto il più a lungo possibile. Quindi dagli 0 anni in su, un numero verde che vale per tutti, 800 24 0024. Cuore e denari. I dentini devono cadere da soli oppure vanno un po' aiutati? A mio nipote non crescono i denti davanti. Mi devo preoccupare? Il mio bambino è sdentato. Quando spuntano i primi dentini da latte? E a che età si iniziano a perdere? Mio figlio sembra uno squaletto. Ha un incisivo inferiore, ma davanti ha ancora il dente da latte. Fammi quei per i denti davanti, te ne prego, bambino Gesù. A abbiamo raccolto alcune tipiche domande riguardo i denti dei nostri bambini. Se siete genitori e volete sapere come prendervi cura della salute della loro bocca, restate con noi, iniziate, ma lo state già facendo e questo ci piace, a chiamare il nostro numero verde. Oggi in linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Raffaella Docimo, che è presidente della Società Italiana di Odontoiatria Infantile. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Si chiamano denti da latte, ma per la salute futura della bocca dei nostri figli valgono oro. Partiamo da qua. Ci aiuti a capire perché, nonostante siano destinati a cadere, sono in realtà così importanti? La ringrazio per la domanda, perché mi permette di chiarire quanto effettivamente i denti da latte sono importanti per la crescita dei nostri bambini. Si chiamano anche decidui perché destinati a cadere, ed è un termine questo che deriva dal latino, preso in prestito dalla botanica, laddove identifica delle piante che perdono le foglie in particolari periodi dell'anno. Quindi, diciamo, anche i nostri denti dei nostri bambini sono denti decidui, denti da latte, perché destinati a cadere, ma non per questo non sono importanti, anzi. Il bambino nasce edentulo, cioè senza denti. Cosa fa la nascita a un neonato? Piange e si alimenta con un'alimentazione liquida, prende certo. Il latte, ancora non mastica, non articola il linguaggio, non articola le parole. Pian piano deve cominciare però a imparare queste funzioni, e i denti in questo lo aiutano. Quindi, se vogliamo dire che cosa serve la salute dei denti, possiamo dire che è fondamentale sin da piccoli per preservare la masticazione, la deglutizione, la posizione degli elementi dentari, per garantire una corretta eruzione dei futuri denti permanenti, per garantire uno sviluppo armonico delle arcate, per permettere una corretta articolazione del linguaggio in una fase di apprendimento così delicata. E questo sono tanti, 20 nei denti da latte e poi 32 quando diventiamo grandi. Sì, sono 20, 10 per arcata i denti da latte, e poi diciamo 28 i denti permanenti, che diventano sì. 32 con i denti del giudizio, se sono presenti. I famosi denti del giudizio, tu li hai ancora? Sì, sì. Non avrei detto. Ma guarda, la viperina. Abbiamo in linea? Sì, abbiamo in linea Giuseppina da Modena e Nicoletta da Firenze. Giuseppina mi ha fatto fare un tuffo nel passato pazzesco. Giuseppina, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, belle signore. Grazie. Grazie. Ecco. A parte allora, il fatto che lei si chiama come la mia mamma, ma ha fatto una cosa che ha fatto anche la mia mamma, ce la racconti sì, un po'? Sì, allora, io conservo ancora il mio primo dentino, e siccome io vengo da Palermo, sono nata lì, si usava, non so se adesso si usa ancora, comunque incapsulare il dentino. E fare la medaglietta? Sì, no, proprio incapsulare. Ah, incapsulare. Con un gancio poi si conservava, incapsulare come una capsula, sì. Come le classiche okay. Capsule, quindi in oro, quindi io conservo ancora questo dentino. E io ho conservato il primo dentino di mia figlia, non l'ho fatto incapsulare perché non mi piaceva tanto, però lo conservo. La cosa però importante, anzi, prima un altro ricordo, da noi veniva San Nicola, sì. Non arrivava il topino l'ho imparato qui a Mode. Quindi a mia figlia in Inghilterra arriva la fatina, esatto. Insomma, paese che vai, sono in tanti a prendersi il disturbo, topino che trova, di rendere questo Giuseppina momento una domanda da fare per alla professoressa Docimo? Sì. Sì, però la cosa importante che io ho fatto su suggerimento del pediatra, comunque che già immaginavo, non ho mai assolutamente intinto la tettarella o nel miele o nello zucchero. Brava, ci vuole, gli facciamo Gianmarco un applauso, adesso arriva l'applauso. Anche perché questo applauso si unisce alla professoressa Docimo. Professoressa, beh, certo. Vero? Allora, perché purtroppo questa è ancora un'abitudine diffusa, quella cioè di utilizzare delle sostanze dolci per tranquillizzare il bambino. Io dico sempre che i due braccia sono sicuramente molto più utili e sicuramente non dannose, come può essere un biberon con tisane, con latte con biscotti, con camomille zuccherate, o ancora oggi ciuccio, per esempio, intinto nel miele o nello zucchero. Quindi bisogna fare attenzione, perché questo può essere la causa di carie molto precoci che si manifestano nei denti da latte e addirittura entro il primo anno di vita. Quindi un'attenzione particolare, e un'informazione, una sensibilizzazione su quelli che sono dei comportamenti assolutamente sbagliati. Tra l'altro ci sono anche altri ascoltatori che al 349-238-6666 segnalano a proposito di comportamenti: il ciuccio ha 3 anni e mezzo, solo la notte per dormire, può dare noia ai denti, chiede Angela. E ancora un altro ascoltatore o ascoltatrice: la mia bambina succhia il dito, come posso fare, a 24 mesi, quindi chiedendo naturalmente se c'è una conseguenza. Certo, professoressa sulla... Docimo. Questi sono dei vizi orali che diciamo sono molto diffusi, sono anche comprensibili, possono essere una necessità per il bambino, pensi ai bambini che magari vedono nascere il fratellino più piccolo, quindi ci sono delle situazioni particolari. Diciamo che l'eccesso è sbagliato, perché se l'abitudine di un dito in bocca o di un ciuccio viene contenuta entro i 2 anni, 2 anni e mezzo, in realtà quelle modifiche che possono manifestarsi poi vanno incontro a un'autocorrezione spontanea se la causa che l'ha determinata viene rimossa, cioè praticamente se il bambino non mette più il dito in bocca o peggio non mette più il ciuccio in bocca. E questo diciamo che è proprio il percorso di prevenzione che noi come odontoiatria infantile, come Società Italiana di Odontoiatria Infantile portiamo avanti, sia per ridurre quello che è il rischio di malocclusioni, sia per quanto riguarda la patologia cariosa, che è ancora un capitolo molto importante e ancora diciamo da approfondire in termini di prevenzione, perché come lei saprà diciamo negli ultimi anni la carie è aumentata del 15%. Abbiamo una popolazione pediatrica italiana che è tutta a rischio di carie. Questo che cosa significa? Che quasi il 60% degli individui di età compresa fra i 13 e i 18 anni ha già almeno un dente cariato. Se poi andiamo a guardare che cosa succede nella popolazione adulta, noi che cosa vediamo? Che il 42% circa dei soggetti di età compresa fra i 75 e gli 80 anni ha una protesi totale, e il 52% grosso modo, questi sono dati del Ministero, negli ultra ottantenni. Quindi è un percorso che deve cominciare dalla nascita, perché è l'unico modo per poter avere poi una popolazione sana. Una popolazione sana, visto che la vostra trasmissione poi è Cuore e Denari, che si sposa anche ovviamente con un risparmio in termini economici e in termini di impegno, di tempo e di compliance e di motivazione del paziente. Per questo, professoressa Docimo, si diceva, è un investimento che costa poco e rende molto, ma soprattutto chi non lo fa rischia grosso, perché poi lo sappiamo le cure dentistiche sono molto costose, ci sono sempre più italiani che ci devono rinunciare proprio a causa della crisi. Vorrei tornare sul problema carie, perché un ascoltatore ci scrive se esiste una predisposizione genetica alla fragilità dei denti, perché l'ascoltatore, che non si firma, ci racconta che gli sembra di notarlo nei suoi 2 figli. Dunque, bisogna dire una cosa, che sicuramente la carie è una malattia, una patologia a carattere infettivo che diciamo riconosce vari fattori, e di questo noi non possiamo non tener conto. Certo. Quindi abbiamo da una parte una notevole concentrazione di batteri che sono la causa della carie, abitudini alimentari sbagliate, un flusso salivare inadeguato, una esposizione al fluoro insufficiente, una scarsa igiene orale. Allora, per rispondere alla domanda, mi permetto di sottolineare una cosa che forse molti non sanno, cioè che praticamente i bambini alla nascita hanno un cavo orale che è sterile. Successivamente acquisiscono dall'ambiente uno schema, un profilo di microrganismi che poi porta alla maturazione del sistema orale. Che cosa si è visto? Si è visto che la principale fonte di infezione nei bambini è la saliva materna, come a dire che vi è una stretta relazione fra le condizioni di igiene orale, la salute orale delle madri e la patologia orale dei bambini. Questo credo che sia un momento importante, perché credo che di questo noi non possiamo non tener conto se parliamo di prevenzione e se parliamo di una malattia che è una malattia che viene considerata appunto infettiva. Questo che cosa significa? Sì. Che se la mamma ha una concentrazione di batteri relativi allo streptococcus mutans, che è la causa, naturalmente passa a contatto. Certo, professoressa con Docimo, questo è un tema che riusciremo ad affrontare dopo il nostro GR, vi aspettiamo. Cuore e denari. Riusciremo a farla, la nostra carie, ve lo garantisco io. Gli piace troppo lo zucchero e uno di questi giorni vedrete che si dimenticheranno di lavarsi i denti. E siamo tornati e stiamo parlando di carie, un problema serio. I dati ci dicono che negli ultimi 5 anni il problema è aumentato ben del 15%. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Raffaella Docimo, che è presidente della Società Italiana di Odontoiatria Infantile. Abbiamo capito che insomma dobbiamo tutelare la salute dei denti dei nostri bambini sin da quando sono piccini, ma la professoressa Docimo ci ha detto una cosa molto interessante, cioè che non sono solo le abitudini alimentari sbagliate, quindi il consumo eccessivo di alimenti o bevande zuccherate, non solo magari la scarsa igiene, e tra poco parleremo anche di dell'apporto ottimale di fluoro, che sappiamo che è la pietra miliare della difesa dei nostri denti, non solo queste possono essere le cause della carie, ma come ha sottolineato anche la saliva della mamma. Molto spesso, professoressa Docimo, l'abbiamo fatto tutto, il ciuccio cade, non abbiamo l'acqua a portata di mano, il bambino strilla, cosa facciamo? Passiamo il ciuccio in bocca e quasi per prenderci tutto quello che ha raccolto per terra e per pulirlo, e quindi lo diamo al bambino. E in questo modo, senza poi trascurare il fatto che ogni mamma mangia di baci il proprio bambino, e quindi qualche un po' di saliva c'è. Adesso lei invece ha detto alle mamme, all'ascolto, mamme, fate attenzione. Certo, proprio per questa possibilità di trasmissione di batteri che poi sono i responsabili della carie. Quindi diciamo che noi abbiamo possibilità per prevenire, bisogna che lo si sappia, bisogna mettere in atto tutti quei meccanismi che permettono di prevenire, proprio perché naturalmente alla luce di quello che ci siamo detto prima, dei numeri, abbiamo un problema di emergenza economica. Come è stato detto dal Codacons, l'11% degli italiani rinuncia alle cure perché non ha possibilità economiche, e nel caso delle visite odontoiatriche la percentuale è del 23%. Quindi, allora questo diventa un problema molto importante, ma diventa ancora più grave se si considera anche in termini economici che un bambino su 5 è sottoposto a terapia ortodontica perché ha perso troppo presto un dente da latte gravemente compromesso da patologia cariosa non curata. Quindi voglio dire che è importante non solo ai fini di conservare e di preservare le funzioni ai quali la nostra bocca è deputata, alle quali la nostra bocca è deputata, ma anche per evitare tutte quelle complicanze che poi richiedono un impegno di tempo, di accompagnamenti, di soldi, di tempo libero, e ovviamente un impegno economico. Quindi io credo che questo è un problema sul quale bisogna da cuore denari tenere. Professoressa. Tra l'altro, professoressa Docimo, una curiosità mi è stata stuzzicata da questa sua risposta: il perdere troppo presto il dentino, quant'è il troppo presto? Qual è quell'età che deve già cominciare a mettere un po' sull'attenti il genitore? Ma guardi, diciamo che se noi parliamo di permute fisiologiche, cioè praticamente di denti che fisiologicamente vengono persi per essere sostituiti poi dai permanenti, diciamo che ci sono delle variabilità individuali, ci sono dei tempi di eruzione classici per cui diciamo il primo dente rompe a 6 mesi, il primo dente permanente rompe a 6 anni, però chiaramente diciamo ci sono poi delle variabilità temporali che non hanno un significato clinico importante. Per ritardi, professoressa Docimo, sono tanti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo: mio figlio non crescono i denti, è rimasto l'unico sdentato della sua classe, oppure non li mette. Allora ci sono tanti dubbi. Allora, sgombriamo subito il campo: case di anodonzia, cioè di assoluta mancanza di denti permanenti, devo dire che io non ne ho mai visti, sono descritti sui libri, però diciamo che non si riscontrano nella pratica clinica. Bravi. Ci possono essere dei ritardi, possono essere dei ritardi fisiologici, possono essere dei ritardi patologici, perché magari quello spazio è stato perso forse troppo presto, quello spazio si è chiuso, per cui il dente permanente ha difficoltà a trovare il suo percorso di eruzione e andare così a erompere nel suo sito elettivo. Però devo dire, sono tutte situazioni che sono assolutamente gestibili. Tra poco parleremo di fluoro. Fluoro sì, fluoro no. I genitori si interrogano quando si inizia a lavare i denti ai bambini, quando iniziano a essere grandicelli, i genitori hanno paura di somministrare il fluoro, e perché se lo inghiotte, insomma, lei lo sa meglio di me, professoressa Docimo, il fluoro divide, o perlomeno i genitori sono un po' confusi. Finalmente le linee guida faranno chiarezza, ne parleremo tra pochi istanti dopo aver dato una risposta ad Alessandro che ci chiama da Como e che ha un problema opposto forse a quello di cui parlavamo prima. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Mio figlio ha 7 anni compiuti, non ha ancora perso un dente. Ha tutti i denti da latte, quindi? Ha tutti i denti da latte, tutti i denti. Gli dondolano un paio da 6 mesi. Una domanda? Sì. A che età ha messo i primi denti da latte? Verso i 6 mesi, 8 mesi. Ecco, perché guardi, generalmente c'è un corrispettivo tra il tempo di eruzione dei primi denti da latte e quelli permanenti. Voglio dire che se il bambino ha messo i primi denti intorno agli 8-9 mesi, probabilmente perderà questi denti più tardi rispetto ai 6 anni considerati come periodo classico per l'inizio della permuta. Così come quando praticamente vediamo bambini che hanno denti in arcata da latte prima dei 6 mesi, perché sono erotti prima dei 6 mesi, li perdono, poi la loro permuta inizia prima dei 6 anni. Però ecco, in generale, ma grazie. Tranquillo, assolutamente. Invece tranquillo. Michele, che è diventato il nipote di Deborah, che è diventato un po' la mascotta di Cuore Denari. Certo, la permuta la sta facendo adesso a 6 anni. Sta diventando ricchissimo perché la nonna ogni volta sborsa qua, e io non ho mai visto neanche 50 lire quando li perdevo io, ma qua la nonna sbraca proprio. Ma le nonne per i nipoti veramente impazziscono. Ma professoressa Docimo, io vorrei che lei chiaramente parlasse ai genitori all'ascolto per quanto riguarda la somministrazione di fluoro. Fluoro sì, fluoro no, come e in che formula? Ecco, io la ringrazio perché questo mi permette di poter chiarire un concetto fondamentale, che poi è quanto è emerso dall'aggiornamento delle linee guida approvate dal Ministero della Salute. Allora le posso dire che il fluoro sicuramente è ritenuto il mezzo efficace per la prevenzione della carie. Quello che è modificato è questo, che si è visto che l'effetto preventivo post-eruttivo del fluoro ottenuto attraverso una somministrazione topica e quindi attraverso il dentifricio è più efficace rispetto a quello pre-eruttivo ottenuto attraverso gocce compresse. Detto in parole più semplici, diciamo sì assolutamente al fluoro da quando erompono i primi denti da latte, quindi 6 mesi. Quindi dai 6 mesi, quindi nel primo anno di vita, attraverso il dentifricio, dosato in quantità e in rapporto all'età del bambino. Quindi non più gocce e compresse, se non nella, diciamo, fasce sicuramente più a rischio, ma diciamo per i bambini normalmente somministrazione attraverso il dentifricio, perché il fluoro a contatto con i denti, il fluoro contenuto nel dentifricio, permette effettivamente di prevenire le lesioni cariose. Quindi anche se il di dentino ce n'è uno, si spazzola con lo carino. Diciamo, quando non ci sono denti, la mamma con una garzina può detergere le arcate dentali e poi pian piano, man mano che rompono i denti, introdurre la pulizia con il dentifricio. È evidente che è importante, ripeto, che il dentifricio contenga il cloro in rapporto all'età del bambino. E quanto dentifricio deve essere messo sullo spazzolino? Diciamo che è una quantità minima, noi diciamo pisaiz, diciamo cioè della grandezza di una lenticchia, di un pisello, cioè, oppure sporcato, quindi sì, poca quantità, proprio per evitare ingestioni involontarie. Però io quindi mi scusi, sono i dentifrici di quelli che si trovano in farmacia, certamente, supermercati, in vendita, dove c'è scritto per bambini. Sì, esattamente, e sono dosati in rapporto all'età del bambino, quindi diciamo che io... è un facile acquisto, devo dire. Io però, se lei lo mi so, dà tempo... vuole, per, a proposito, sì, anche Deborah era molto interessata, perché anche Michele va nella mangia immensa e mi diceva, ma adesso proprio così racconterò a mia sorella cosa deve fare. Ma lo spazzolino se lo possono portare, perché Deborah è una zia. No, i bambini vanno a scuola, rimangono a scuola, ma non si possono lavare i denti. Esattamente, io proprio questo è un argomento al quale tengo moltissimo come presidente della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, perché portiamo avanti questo discorso e chiediamo l'aiuto delle istituzioni. Parlo del Ministero dell'Istruzione, parlo del Ministero della Salute, perché venga definito finalmente un protocollo scolastico, perché noi parliamo di prevenzione, parliamo di informazione, grazie per avermi invitato a farlo, però tutto questo deve trovare un riscontro nella pratica quotidiana. I nostri bambini frequentano ovviamente la scuola dell'obbligo, entrano alle ore 8:30, escono alle ore 16:30, 17 normalmente, se non oltre, consumano pasti principali e merende al di fuori dei pasti principali. È inaudito che non si programmi una corretta igiene orale all'interno delle scuole. Io lavoro al Fate Bene Fratelli, Isola Tiberina di Roma, ho una popolazione quindi che copre, diciamo, la città di Roma. Nel sondaggio che abbiamo fatto, genitori e figli, il 99,90 eccetera, non lava i denti a scuola, perché gli insegnanti non lo permettono. E quindi questi chewing gum alternativi un po' per la pulizia che vanno molto di moda, adesso ci sono tante campagne pubblicitarie per chi magari sta fuori casa a lungo e non può curare l'igiene orale in maniera adeguata, cioè il chewing gum, lo dobbiamo dare anche ai bambini? Certamente, voglio dire, il chewing gum anche all'xilitolo può, diciamo, stimolare il flusso salivare, ma non è sicuramente un diciamo uno sostituto. Diciamo che possono essere considerati, cioè, quelli functional foods, così, cioè cibi, alimenti funzionali, però in realtà non è che possiamo sostituire questo con le corrette manovre. Quindi voi invitate il ministero a così ad aiutarvi a sostenere questa battaglia, far entrare lo spazzolino nelle scuole. Sì, esattamente. Bisogna che, diciamo, ci siano meccanismi di sorveglianza che permettano ai nostri figli. Certamente, perché questo non è più ammissibile. Grazie alla professoressa Raffaella Docimo per essere stata con noi. Abbiamo promesso che ci saremmo occupate anche dei denti, ma in modo particolare delle gengive di chi bambino non è più. Essere e benessere. I denti miei scintillano come le stelle in cielo. Non vedono mai tartaro né carie, tanto me. Allora, abbiamo. Sì, la carie è un problema per tutti, ma in modo particolare per i bambini, ed è aumentata negli ultimi 5 anni del 15%. E le gengive danno del filo da torcere, sono un po' il tallone d'Achille degli adulti. Parliamo di parodontite, che è un'incidenza del 60% nella popolazione adulta italiana, di cui il 6-8% è rappresentata dalla forma aggressiva. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Francesco Martelli, medico chirurgo odontoiatra. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Martelli, un tempo si chiamava piorrea, adesso abbiamo capito tutti che si chiama parodontite. È un'infiammazione delle gengive, una malattia delle gengive che sanguinano, cambiano colore. È un problema serio per la salute orale, ma anche per la salute dell'organismo intero. Infatti, a rimetterci anche la salute del cuore. Ma professor, dottor Martelli, ci dia qualche indicazione per muoverci, per capire che le nostre gengive si stanno ammalando. Abbiamo detto? Le gengive arrossate, gonfie, sanguinanti, le gengive che hanno la tendenza ad abbassarsi, sono già una testimonianza inequivocabile della presenza in bocca della malattia parodontale, che ricordiamo è una malattia infiammatoria ma a causa infettiva, certo. Quindi è una patologia polimicrobica, per questo purtroppo non si cura con gli antibiotici. Non bastano gli antibiotici adesso, se questo abbiamo un trattamento che permette di essere meno invasivo, perché si può trattare infatti adesso con il laser, dottor Martelli. Quindi il laser è uno dei tanti strumenti che oggi noi abbiamo a disposizione, sì? Che va contestualizzato in un iter diagnostico, terapeutico e prognostico che preveda poi un mantenimento, perché purtroppo il trattamento non configura una vaccinazione. Quindi questi batteri, pur non essendo aggredibili dagli antibiotici o dagli antisettici, quindi paradossalmente non serve quasi a nulla inondare le bocche con sciacqui di clorexidina che sì. non fanno altro che pigmentare i denti. Ma bisogna, ci si può affidare a queste soluzioni che sono efficaci e direi poco dolorose. Cosa fa effettivamente il laser e può sanare una parodontite a qualunque livello, sia a livello allo stadio iniziale che a quello più aggressivo? Assolutamente sì, noi abbiamo testimonianza e prove, stiamo per pubblicare uno studio fatto su ben 5.000 pazienti affetti da parodontite recidivante, quindi parodontite in gran parte aggressiva e resistente alle terapie, che trattati con quest'iter che presuppone una diagnosi microbiologica e poi dopo un'accurata levigatura delle radici, levigatura meccanica intendo, un trattamento con laser per una decontaminazione profonda e per un blocco dell'infiammazione, i pazienti guariscono e i tessuti si rigenerano. Ma professore o dottore, mi scusi, qua sa che andiamo sempre un po' in confusione, ma a parte questo, sono costosi questi interventi? Perché sa che noi l'aspetto denari interessa molto. Sono molto meno costosi degli interventi tradizionali, che sono interventi chirurgici. Oggi l'utilizzo del microscopio nell'ambito della terapia parodontale può essere paragonato a quella rivoluzione che ha introdotto in chirurgia generale l'endoscopia. Una volta per fare una colecistectomia c'era bisogno di aprire un addome, oggi si fanno due buchetti con l'endoscopio, si leva la colecisti e il paziente va via il giorno dopo. Perché Valerio da Pisa ci scrive: si faccia dire dal dottor Martelli quanto costa il laser, più di una Ferrari, forse perché per il medico che deve acquistarlo allora. Il laser ha un costo certo, importante, però, sì, però, per il medico che lo deve acquistare. Però chi soffre di parodontite no? può risparmiare con questo trattamento. Ha dei benefici che certo. non sono raggiungibili altrimenti, soprattutto nei casi più difficili. Grazie dottor Martelli, noi ci risentiremo, ne parleremo ancora, intanto certo. spazzolatevi bene i denti, mi raccomando, e anche dopo pranzo. E nel frattempo anche andate sul sito di Radio 24, andate a pescare la nostra iniziativa Cuore, Denari, Vitali, andate a completare gli incipiti che abbiamo messo questa settimana, ricordatevi le parole chiave, noi intanto Giovenca e Zemia. Sì, Giovenca era per la parte di denari e Zemia per la parte di che mi interroga, neanche me lo ricordavo. Siamo pronte per salutare i nostri ascoltatori e ridare l'appuntamento a lunedì. Buon weekend a tutti.